Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Tedesco. Presentarti dicendo quello che dicono tutti in giro nel mondo, il più grande batterista di jazz italiano nel mondo, ma sinceramente vorrei presentarti qui al soundcheck di Radio 24 per come ti conosco io, un grande musicista, un appassionato di musica prima di tutto, un musicologo, un arrangiatore, uno strepitoso compositore, molti non ti conoscono come compositore, producer, discografico, ottimo chef e appassionato di scarpe di classe. Ladies and gentlemen, vi sto parlando del maestro Roberto Gatto, benvenuto al Soundcheck. Grazie a voi per avermi invitato. Grazie. Senti Robby, ti è piaciuta la presentazione? Ottima. Cioè, descrive più o meno quanto, al 70-80% il tuo essere musicista e anche uomo. Tu mi conosci bene, quello hai fatto una bella presentazione perché tu sai la mia storia, meglio di chiunque altro. Grazie Rob, è vero, è così, perché conosco Roberto personalmente, saranno più o meno 30 anni, no? Quando io mi trasferii a Roma, avevo 19 anni, andai a vedere un concerto in un club di questa bellissima città e alla batteria c'era Roberto Gatto, che già avevo visto dal vivo in teatro nella mia città, Foggia. E io allora suonavo la batteria e te l'ho detto più volte, ti ho detto questa cosa, che se poi ho lasciato professionalmente lo strumento, per quanto sia un appassionato, è un po' per colpa tua, quindi io ti responsabilizzo su questo, ma ti ringrazio perché mi hai fatto capire che dovevo dedicarmi a altro. E poi sei diventato un grande cantante, insomma, che non è poco. Ma comunque continui a suonare anche la batteria bene, dai. Vabbè, se lo dici tu sarà così. Senti Roberto, allora noi trascorriamo due giornate insieme, due puntate che io ti voglio dedicare parlando non solo del tuo strumento ma parlando di musica. E per fare questo vorrei che tu raccontassi un po' la tua storia con la musica. Tu hai iniziato prestissimo sulla batteria, non suonando proprio jazz. Ti sei avvicinato alla musica in che modo? Ma sempre per questioni di famiglia, sai bene cosa significa avere due genitori appassionati di musica, sono diciamo la chiave un po' di tutta questa storia, quindi avere una famiglia musicale o di musicisti o di appassionati comunque mi ha agevolato moltissimo, quindi ho ascoltato i dischi di mio padre, per fortuna c'erano, ce n'erano tanti e anche belli, di musica classica, di jazz. Mia madre era una cantante, quindi diciamo che a casa mia hanno sempre girato musicisti, ha sempre girato la musica e io ho usufruito di questo quando ero molto piccolo, quindi grazie a questo apporto che ho avuto da parte loro ho cominciato ad appassionarmi, uno zio batterista anche molto importante, e quindi da lì è nata tutta la storia, insomma. Tu sei un musicista sempre rivolto al futuro, un musicista avanti, ma molto attaccato alla tradizione, continui ad ascoltare e a comprare i dischi dei grandi maestri, e questo si risente anche nelle tue produzioni discografiche. Allora, prima di continuare i nostri racconti, vorrei subito presentare Roberto Gatto ai nostri amici qui in quintetto, in questa sua versione di Sing Sing Sing, un classico di lui prima che è diventato poi uno standard dello swing, in ottima compagnia, da un album di quanti anni fa, Roberto, questo? Del 99, leggo qui, con Javier Girotto ai sassofoni, Gianluca Petrella, allora veramente giovanissimo, al trombone, Stefano Bollani, giovanissimo anche lui, al pianoforte, Michel Benità al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria, qui al soundcheck di Radio 24 con Sing Sing Sing. Thank you. il sound di Roberto Gatto in questo classico dello swing e del jazz di lui prima, Sing Sing Sing, in questa puntata che io ti voglio dedicare, ma anche domani saremo insieme, allora, a riascoltare la musica che tu hai fatto. Che sensazione provi? Personalmente, quando sento le mie cose, non mi piacciono quasi mai. E a me fa un po' lo stesso effetto. Non solo, ma quando mi rivedo, quando riascolto la mia voce, mi fa sempre un effetto molto strano. Però ogni tanto inevitabilmente uno ritorna anche ad ascoltare dei vecchi lavori. Io alla fine ho fatto tantissimi dischi, ho scoperto, cioè come leader ne ho fatti credo 14-15, e ogni tanto per forza di cose ci ritorno e qualcosa mi fa ancora un ottimo effetto, qualcosa magari la posso considerare un po' più datata, però alla fine scopro che insomma ho scritto tanta musica, in realtà ho scritto tanta musica, ho fatto tanti progetti molto diversi tra loro, e questa è una delle caratteristiche forse principali della mia attività, soprattutto di compositore e band leader, quella di abbracciare un po' tutti i generi senza fissarmi magari su uno in particolare, e passo da una cosa a un'altra con una facilità estrema. Questa è la voce della nostra amica Didi Bridgewater in un classico di Herbie Hancock intitolato Watermelon Man, in una versione contemporanea con musicisti francesi, credo di una decina di anni fa. Nostro ospite al soundcheck qui a Radio 24, il maestro Roberto Gatto. Parliamo di musica, parliamo di batteria, che è il suo strumento, parliamo di composizione, ma soprattutto parliamo della tua attività. Da un po' di tempo tu insegni musica. Dove insegni musica e perché? È bella questa. Insegno musica al Conservatorio di Santa Cecilia, che è un ottimo dipartimento di jazz, dopo anni, perché molti miei colleghi hanno cominciato molto prima di me, diciamo, ad occuparsi di questo tipo di cose, facendo concorsi. Tutti mi dicevano: ma perché tu non fai un bel concorso e non entri a fare? Perché per me era un po' fuori discussione il fatto di dedicarmi esclusivamente ad andare in giro a suonare. Quindi questa cosa l'ho sempre considerata un po' un freno, poi a un certo punto, e evidentemente andando avanti con l'età ho maturato un'idea, e quindi ho detto: perché no, proviamo. E questa cosa mi ha conquistato totalmente, per cui il fatto di insegnare mi sta dando tantissime soddisfazioni. È una cosa veramente molto bella avere a che fare con i ragazzi, e soprattutto tirar fuori tutto quello che uno sa e vedere che questi ragazzi alla fine imparano questa musica attraverso i racconti. Anche sì, la didattica è importante, ma soprattutto avere una persona che li possa far sentire dentro a quello che è stata un po' la musica con la quale sono cresciuto, attraverso esperienze, racconti, aneddoti e tant'altro. Io ho la più bella lezione di musica che ho avuto nella mia carriera, forse la più importante, l'ho avuta proprio da quello che considero il mio maestro nella vocalità, che è John Hendrix. A New York registrammo un disco insieme, tra l'altro un disco al quale hai partecipato anche tu per la produzione di Ben Sidran per la Go Jazz Records, e chiesi dopo la giornata in studio di registrazione a John Hendrix di andare a cena. Andammo a cena e gli chiesi: ma domani sei libero? Lui mi disse sì. Ah, bene, posso venire a casa tua così mi dai una bella lezione? E lui, guardandomi in faccia e anche con un atteggiamento abbastanza rude, mi disse: ma che ti credi, che io vengo a raccontare tutti i miei segreti a te? E ci rimasi molto male. Poi aggiunse: ma tu stai già suonando con me, abbiamo fatto i concerti insieme, ascolta e impara. E questo credo che sia un segreto. Quali sono invece le prime nozioni, che cosa vuoi far capire ai tuoi allievi, ai ragazzi, quando nell'approccio proprio con la didattica? Che, parlando di questa musica, la prima regola è la passione, avere la passione e la curiosità. Bisogna studiare questa musica, ma studiarla sui libri, studiarla sui dischi, piuttosto che sugli spartiti. Quindi uno si deve appassionare, è una questione di linguaggio, una questione di codice e di vocabolario. Se non conosciamo il vocabolario del jazz non potremo affrontare questa musica. E uno dei problemi che abbiamo qui in Italia è proprio la mancanza di vocabolario, cioè molti dei musicisti imparano una piccola parte di questo vocabolario che non è sufficiente poi a rappresentare quello che invece è il jazz, che è una musica piena di riferimenti, piena di cultura, piena di storie, e quindi l'unica vera grande cosa è che tu devi trasmettere a scuola è la passione attraverso lo studio della materia stessa. Allora, ti voglio omaggiare con un tuo illustre collega, un musicista che abbiamo tutti apprezzato, soprattutto in un periodo importante, quasi un momento di muta per il jazz e il rock insieme, si chiamava Jazz Rock, e questo era uno dei protagonisti, Billy Cobham, con un brano, anche lui come te, compositore, che è diventato uno standard del jazz funk rock contemporaneo, ovvero Red Baron. Restate con noi, questo è il Soundcheck di Radio 24. Per il soundcheck di Radio 24, sempre con Gegé Telesforo, in ottima compagnia con il mio amico Roberto Gatto. Abbiamo già raccontato come funziona lì al Conservatorio di Santa Cecilia, dove ormai da parecchio tempo, da diversi anni, c'è il Dipartimento di Jazz e funziona benissimo. Ma con Roberto volevo adesso parlare di tecnologia. Quanto sei dentro alla tecnologia? Quanto utilizzi il computer per fare ricerche e per fare musica? Ma devo dire moltissimo, stranamente, perché io non mi consideravo assolutamente un tecnologico. Ho attraversato delle fasi della tecnologia anche applicate alla musica, sono stato uno dei sicuramente dei primi ad usare anche batterie elettroniche, pad, eccetera, eccetera. Poi per molti anni in realtà mi sono abbastanza disinteressato, però mi sono anche reso conto che se non avessi approfondito l'argomento negli anni giusti mi sarei trovato ora, all'età in cui sono arrivato, a non sapere di queste cose, avrei avuto grossi problemi. In realtà non sono ancora chissà quanto tecnologico, però per esempio anche nella musica ultimamente sto lavorando molto con questo trio elettrico che ho, che si chiama Perfect Trio, e lì per esempio uso molto iPad, iPhone, e c'ho un sacco di programmi che interagiscono con il resto del gruppo e che manovro io insieme a suonare la batteria, e mi piace moltissimo usare sample, usare suoni appunto campionati e suoni anche artificiali strani da mischiare, per cui diventa un suonare in tempo reale la batteria e anche avere a che fare con queste cose elettroniche, e secondo me giovano moltissimo alla musica, a quella musica lì. Ecco, noi apparteniamo tutte e due a una generazione di mezzo, ma una generazione che non ha avuto la fortuna di avere la rete, di avere il computer. Noi per procurarci certa musica dovevamo faticare, dovevamo fare le telefonate ai distributori di dischi, ordinare i dischi. Io li ordinavo da un distributore indipendente che si chiamava Il Mondo Dimar, e mi spedivano il vinile a casa. Per acquistare il primo Real Book, che è il libro che raccoglie gli standard di jazz, è un libro sul quale si sono formate generazioni intere di musicisti di jazz, sono stato costretto ad andare a New York a comprarlo. Invece oggi non ci sono scuse se vuoi studiare e essere informato. Non ci sono dubbi su questo, i ragazzi hanno vita molto più facile, e per quello che poi tutti sono in qualche modo anche più preparati di noi, no? Di come non lo fossimo noi all'inizio. Leggono tutti benissimo la musica, sanno già insomma su il terreno su cui muoversi, perché hanno un sacco di materiale audio, materiale video, hanno YouTube, cioè pensa solo a YouTube che cosa rappresenta, è una cosa strepitosa, cioè veramente non si può immaginare di poter vedere video di Shelly Manne che fino a 3, 4, 5, 10 anni fa erano sconosciuti, o video di rari, di cose, di trasmissioni. Sì, oppure scoprire i nuovi talenti. E approfitto perché parli proprio di YouTube, e questi ragazzi che ti faccio ascoltare sono stati scoperti, sono nati proprio come fenomeno su YouTube, una band che si chiama Dirty Loops, una band svedese, un trio, tastiere, batteria e basso elettrico, che hanno iniziato per gioco a realizzare le cover di artisti pop, tipo da Lady Gaga a Madonna, Britney Spears, ma realizzando degli arrangiamenti molto personali. Adesso sono approdati alla Verve, quindi per la distribuzione della Universal, e il loro primo album sarà pubblicato il prossimo anno, ma noi abbiamo il singolo che si intitola Hit Me. Sono Dirty Loops per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Came off a ride, just like a normal guy. Got my tone changed round midnight. Left you message 100, wish that they all could be deleted. Your number is hanging out the bed. I'm sick and tired, but deep inside I know I'm screwed if you don't call me. Il sound dei Dirty Loops, giovanissimi, direttamente dalla Svezia, con Hit Me al soundcheck di Radio 24. Siamo in chiusura e quindi noi, Roberto, ci tratteniamo, ci vediamo domani con Roberto Gatto per continuare a parlare di musica, e vorrei chiudere con un'anticipazione, nel senso che ormai ti stai dedicando anche alla direzione artistica di un jazz club storico a Roma, ovvero il meraviglioso Music Inn. Sì, ogni tanto capita anche questo, anche tu lo sai perché sei stato direttore artistico, ma in particolare Music Inn è un locale storico dove sono cresciuto io e praticamente quasi il 70% dei musicisti di jazz di Roma, e c'è stato questo rilancio, mi è stato chiesto di seguire appunto una parte della programmazione verso il jazz, e quindi ho accettato di ottimo grado, e stiamo così vedendo che cosa succede. La situazione è difficile, sappiamo il momento difficile, però comunque io ci credo sempre, come in tutte le cose che faccio, quindi abbiamo inaugurato bene con un bellissimo gruppo e adesso ho programmato fino a gennaio e vediamo che succede. È un appuntamento importante per la città, perché appunto si riparla di un locale che praticamente è stato il locale più interessante negli anni 70, e nel quale si esibivano da Charlie Mingus a Ornette Coleman, Elvin Jones a Bill Evans, quindi un posto che fa piacere a tutti possa rivivere una nuova stagione. Allora, visto che parliamo del Music Inn, che si trova sul Lungotevere, facciamo scopa con una composizione di Roberto Gatto per salutarci, che si intitola Su Lungotevere, e qui viene fuori il grande compositore che è Roberto Gatto. Ci sentiamo domani con il soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio e buona musica a tutti da Giorgio Telesco. Check. Il suono della musica.